Letture di Radio 24. Entrerà in funzione tra pochi mesi la banca dati del DNA. Servirà per combattere il terrorismo grazie a scambi con le polizie europee, ma potrà essere utile anche per dare una soluzione a casi irrisolti da anni. Era attesa da 6 anni, da quando nel giugno 2009 l'Italia aderì al Trattato di Prüm per la cooperazione europea antiterrorismo. E ora la banca dati del DNA sta per diventare operativa. L'adozione di un apposito regolamento è addirittura di arrivo, ha detto il guardasigilli Andrea Orlando, auspicando che nel secondo semestre del 2015 lo strumento chiave nella lotta al crimine possa vedere l'avvio concreto. Il progetto prevede che in 203 camere bianche venga prelevato il profilo genetico di 50.000 detenuti e memorizzato in un unico archivio tutto il materiale biologico, compreso quello di origine ignota, ritrovato sulle scene del crimine. 100.000 i campioni attesi ai nastri di partenza. Le informazioni saranno condivise tra le forze di polizia italiane ed europee. Una svolta decisiva per dare un nome e un volto agli autori di reati violenti, risolvere cold case irrisolti anche da più di 10 anni, combattere il terrorismo, identificare persone scomparse, ma anche per scagionare sospettati in realtà innocenti. Per rendere garantista lo strumento investigativo, il progetto ha 2 teste. La banca dati, infatti, è di competenza del Ministero dell'Interno, fa capo alla Direzione della Polizia Criminale, che ha sede nel polo dell'Anagnina a Roma, e alla scientifica affida i rilievi sui luoghi dei delitti. Il laboratorio centrale della banca è invece di competenza del Ministero della Giustizia, è situato nel polo logistico di Roma Rebibbia. Gestito dal personale della polizia penitenziaria, a cui spetta anche il compito di prelevare il DNA dei detenuti, è ormai attrezzato. Da un anno è in corso la formazione a distanza del personale, 8.000 operatori di polizia giudiziaria, e sono state completate le procedure per assumere 29 tecnici, biologi e informatici. Chiare le procedure. Il prelievo del DNA avverrà con una spugnetta a contatto con la saliva, da conservare a temperatura ambiente in doppia copia. Un campione sarà archiviato negli armadi intelligenti, con misure di sicurezza congegnate per aprire esclusivamente i singoli faldoni. L'altro verrà usato per la genotipizzazione. Rebibbia, con 4 laboratori, potrà analizzare fino a 96 campioni in 2 ore. Per evitare contaminazioni, l'ingresso sarà vietato anche alle autorità e i pochi visitatori ammessi dovranno sottoporsi al prelievo del DNA, mentre nell'archivio che conserverà i codici genetici per 40 anni, gli stessi operatori entreranno solo se autorizzati. L'inserimento dei dati nella banca avverrà per via telematica e nel database il profilo sarà associato a un codice, mai a un nome, e visibile a non più di un centinaio degli 8.000 addetti ai lavori. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maria Pirro, Guerra al crimine con la banca dati DNA, da Panorama dell'8 aprile. Letture di Radio 24. Ayan Hirsi Ali è una scrittrice di origini somale, impegnata da anni nella difesa dei diritti umani. Autrice della sceneggiatura del film di Theo van Gogh, Submission, nel quale si denunciavano le violenze commesse sulle donne nel mondo islamico, Ali vive sotto scorta dopo l'uccisione del regista per mano di un fanatico e dopo essere stata lei stessa oggetto di una condanna di morte da parte degli integralisti islamici. In un'intervista rilasciata in occasione dell'uscita del suo ultimo libro, Eretica, che nei prossimi giorni arriverà anche sugli scaffali italiani, la Ali spiega che fin tanto che l'Islam moderato continuerà a sostenere che il Corano non può essere messo in discussione, il problema del terrorismo islamico e del fascino che esercita sui ragazzi occidentali non potrà essere risolto. L'unica soluzione, spiega la scrittrice, è una profonda riforma della teologia islamica. Il nocciolo del problema, dice, è insito nei precetti che sono considerati fondamentali nella dottrina islamica. Tra questi, l'idea dell'aldilà, più importante della vita terrena e delle sue tribolazioni, l'obbligo di partecipazione alla jihad o guerra santa, la santità del profeta Maometto e l'accezione letterale del Corano. Seppur molti governi abbiano tentato di appoggiare i predicatori moderati, emarginando i fanatici radicali, fin tanto che questi moderati continueranno, nelle parole di Ali, a predicare che la vita dopo la morte è più importante della vita sulla terra, che Maometto è infallibile e che il Corano non può essere messo in discussione, allora anch'essi contribuiranno ad esacerbare il problema, anziché risolverlo. Nel suo ultimo libro, Ali sostiene che i giovani che assorbono questi precetti hanno difficoltà a conciliarli con la vita in Occidente. Abbracciare la jihad è diventato il mezzo con il quale tanti giovani musulmani tentano di alleviare le pressioni derivanti dal desiderio di condurre una vita musulmana autentica all'interno di una società occidentale permissiva e pluralistica. E cita le parole dell'autore egiziano Hamid, che punta il dito contro alcuni specifici versetti del Corano che servono a giustificare quello che lo Stato islamico sta facendo. Versetti che invocano l'obbligo a combattere gli infedeli, l'imposizione di tributi umilianti a ebrei e cristiani e punizioni efferate per blasfemia e apostasia. Basta considerare, dice, le tre ragazzine della scuola inglese di Bethnal Green, partite per la Siria il mese scorso, con l'intento di diventare spose dei combattenti jihadisti. Secondo Ali, queste ragazze hanno operato una scelta logica. Vai nello Stato islamico perché là ti dicono: siamo noi gli unici a vivere la fede sino in fondo. Siamo noi gli unici veri musulmani. Ali dice che lei stessa avrebbe fatto quella scelta da adolescente. All'epoca, se ci fosse stato un ISIS, avrei lasciato tutto per unirmi a loro. I suoi genitori l'avevano fatta studiare nelle scuole islamiche. Il messaggio di Ali ai genitori di tanti giovani fuggiti di casa per arruolarsi nell'ISIS è questo. Devono riconoscere che sono stati loro stessi a gettare le basi ideologiche grazie alle quali l'ISIS ha potuto far leva sui figli, e lo hanno fatto insegnando loro il Corano. La soluzione auspicata da Ali nel suo libro sta nella riforma della teologia islamica. Alla stregua di Martin Lutero, che inchiodò le sue 95 tesi sulla porta di una chiesa, Ali suggerisce 5 punti sui quali intervenire, con tagli drastici o significative riformulazioni. Innanzitutto, la natura del Corano come la parola unica e inalterabile di Dio e l'infallibilità di Maometto. Poi, l'insistenza sull'aldilà a scapito della vita terrena, che ispira legioni di attentatori suicidi, il concetto di jihad o guerra santa, l'applicazione della sharia nella vita quotidiana e, infine, l'obbligo per tutti i musulmani di fare il bene e impedire il male, che agisce come una forma di giogo sociale, limitando diritti e libertà dei singoli individui. Ali scrive che l'Islam, tuttavia, si oppone a qualunque riforma sin dal X secolo e ricorda i tentativi falliti dei teologi del XX secolo per rilanciare il dibattito. Oggi, però, è anche pronta a elencare una serie di pensatori musulmani, provenienti da ogni parte del pianeta, che appoggiano sostanziali riforme teologiche e suggeriscono che alcuni episodi e ammonimenti del profeta dovrebbero essere ricondotti al loro contesto storico, se non del tutto accantonati. Sono questi i pensatori che meritano il sostegno dell'Occidente, afferma Ali, in una battaglia culturale che richiama i toni delle lotte ideologiche scatenate durante la Guerra Fredda. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Will Pavia, Io, combattente mancata dell'ISIS, dal Corriere della Sera del 1 aprile. Lo chiamavano il fantasma dell'opera perché aveva l'abitudine di acquistare i biglietti più economici per il Teatro dell'Opera di Vienna, per poi apparire come un fantasma nei settori di lusso. Un crimine per il quale questo mite signore di 63 anni è finito anche in carcere. Ma se ci sono dei posti liberi in un teatro, è davvero così importante sapere chi ci è seduto? È la domanda provocatoria che si pone il critico Richard Morrison in un corsivo pubblicato sull'ultimo numero del mensile BBC Music Magazine. Uno dei principali fornitori di lavoro nell'industria cinematografica di Los Angeles è proprio la cerimonia degli Oscar. Gli americani vogliono la perfezione in tutto ciò che viene trasmesso, ma in una cerimonia che dura diverse ore, anche i divi di Hollywood hanno la necessità di assentarsi ogni tanto. Così, per evitare l'imbarazzo di dover mostrare delle sedie vuote quando le telecamere fanno una panoramica tra il pubblico, gli organizzatori impiegano dei figuranti ben vestiti e di bell'aspetto, che se ne stanno per tutto il tempo in disparte, pronti però a riempire i vuoti quando qualcuno del pubblico si alza per andare in bagno o al bar. Mi sono ricordato di questo quando ho letto che il fantasma dell'opera, un gentiluomo di 63 anni, si dice di aspetto trasandato, è stato inseguito in lungo e in largo per l'opera di Stato di Vienna prima di essere catturato e portato in carcere per qualche ora. Il suo orrendo crimine? Aveva più volte acquistato biglietti per i posti più economici, quelli da 10 sterline, e poi, appena si alzava il sipario, si spostava nei posti più cari, quelli che possono arrivare anche a 120 sterline. Agli Oscar pagano le persone per riempire i posti vuoti. A Vienna chiamano la polizia. Forse in Inghilterra però non dovremmo ridere troppo dei viennesi, dato che non siamo immuni da simili stupidaggini. Mi è capitato spesso alla Royal Albert Hall di vedere persone che avevano fatto ore di coda per acquistare i biglietti per i posti in piedi, cercare di intrufolarsi nelle poltrone vuote durante l'intervallo, solo per essere respinti dallo staff. Ma perché? Quei posti sarebbero comunque rimasti vacanti. Nessuno sarebbe stato privato di un guadagno. E i promers, quelli che acquistano i biglietti economici per i posti in piedi, sono generalmente persone colte e gentili, che di certo rappresenterebbero una buona compagnia per il pubblico seduto nei settori più costosi. La risposta in questi casi è sempre che tutto questo non sarebbe corretto nei confronti di chi ha speso una fortuna per sedere in quei posti. Ma questo è tuttavia ciò che accade legalmente in molti teatri. Che cos'è in fondo lo sportello dei biglietti a metà prezzo di Leicester Square se non un mezzo per liberarsi dei biglietti invenduti per i posti più cari? D'accordo, in questo caso chi li acquista non ha la certezza di vedere lo spettacolo nella data che vorrebbe, ma ha comunque qualcosa e molto probabilmente si troverà seduto vicino a qualcuno che, per lo stesso posto, ha speso molto di più. Ma la storia di Vienna ci racconta qualcosa in più di una semplice politica di prezzi, come dimostrano i riferimenti all'aspetto trasandato dell'uomo riportati dai giornali. Qui si tratta di una questione di classe sociale. L'uomo era vestito male e quindi poteva solo essere stipato nelle balconate. È questo che mi fa imbestialire. Trovo assurdo che nella seconda decade del XXI secolo ci si aspetti che le persone sedute nei posti migliori siano vestite meglio o che appartengano a una classe socio-economica più elevata. Eppure sembra che questo sia vero ancora oggi, come lo era nel 1963, quando John Lennon, durante la Royal Variety Performance, la serata di gala che ogni anno si svolge in presenza dei membri della famiglia reale, disse: «Chiedo al pubblico seduto nei posti economici di battere le mani e agli altri chiedo di scuotere i loro gioielli». Propongo questa soluzione radicale. Perché non sperimentano un sistema di prenotazione a due livelli? Il prezzo più alto è per quelli che vogliono scegliere il posto, quello più basso per chi si accontenta del posto che trova quando arriva. Certo, in questo modo gli elegantoni potrebbero trovarsi fianco a fianco con gli straccioni. E allora? Che c'è di male? Si suppone che l'arte debba allargare i nostri orizzonti. O no? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Richard Morrison «Se un posto è occupato, dobbiamo davvero preoccuparci di chi ci è seduto?» dal numero di aprile della rivista BBC Music Magazine. La sindrome nota come post-traumatic stress disorder, il disturbo post-traumatico da stress, è stata scoperta durante la Prima Guerra Mondiale, ma la sua fama si deve soprattutto agli esiti della guerra del Vietnam. Eppure le sue radici sono molto più antiche. Secondo uno studio coordinato da Jamie Acker Hughes, direttore del Veterans and Families Institute presso la Anglia Ruskin University, nelle tavolette cuneiformi dell'impero assiro sono descritti sintomi che richiamano la sindrome da post-conflitto. Allucinazioni con i fantasmi delle vittime che tornano a tormentarli, flashback, disturbi del sonno e depressione. Fino a qualche tempo fa, la prima descrizione di questa sindrome era considerata quella di Erodoto. Raccontando del guerriero Epizelo, combattente nella battaglia di Maratona del 490 a.C., lo storico greco racconta che, mentre combatteva nella mischia, comportandosi da valoroso, perse la vista senza essere stato ferito. Nei testi assiri queste manifestazioni vengono attribuite all'azione degli spiriti dei nemici uccisi. Più scientificamente, il team di ricercatori, che ha intitolato lo studio «Niente di nuovo sotto il sole, PTSD nel mondo antico», li considera una chiara manifestazione della patologia che affligge i soldati che hanno partecipato ad azioni violente e rischiose e non riescono a liberarsi dall'ombra della guerra. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Lo stress dei reduci parte dagli assiri» da Focus Storia di aprile.